Maria Salvati ci ha presentato, seppure velocemente, tutti gli aspetti rilevanti del tema che ci interessa oggi: populismo e democrazia, democrazia e populismo, rigirandolo questa frittata, perché è una vera frittata anche concettualmente, da tutti i lati possibili. Naturalmente, per ragioni di tempo, mi limito qui, e forse anche perché forse è un modo più semplice e più chiaro di rappresentare i problemi, ad esporre delle tesi, che sono naturalmente delle ipotesi, ma che qui, un po' per ragioni di tempo, presenterò in forma leggermente apodittica, ma che vanno ovviamente tutte discusse. Populismo e democrazia. La prima cosa che viene in mente, perché così ci dice, per così dire, il senso comune e soprattutto la tradizione degli studi su questo tema, il populismo è l'elemento che fa problema e la democrazia è la soluzione. Ma evidentemente abbiamo capito che le cose non stanno così. Diciamo, rovesciamo intanto questi termini. Il vero problema è la democrazia. Il populismo è il sintomo di una malattia della democrazia, di un suo deficit, di una sua aporia sostanziale, non occasionale. Giustamente molti storici, Rosa Vallo stesso e parecchi studiosi francesi, per esempio, hanno sottolineato il fatto che la democrazia, cioè il regime democratico come lo conosciamo in Occidente, perché di questo stiamo parlando naturalmente, è sempre stato accompagnato nella sua storia da un'ombra. Questa ombra, genericamente la possiamo chiamare antipolitica, ma diciamo le forme più virulente che hanno anche attirato più l'attenzione, che hanno creato anche più preoccupazione, è quella che va sotto la forma del populismo. Quindi storicamente il populismo è legato alla democrazia, quindi potremmo arrivare perfino a dire, sempre in queste forme un po' apodittiche, che è la democrazia che genera il populismo. Questo sarebbe un modo di vedere, tutto sommato già abbastanza interessante, se potessimo però anche aggiungere una notazione che a me sembra molto importante quando si parla di queste cose che sono un po' tra il sociale e il politico, come nel caso del populismo, no? Noi diciamo regimi democratici con riferimento alla democrazia occidentale, poi c'è la democrazia degli altri, ma di questo qui adesso per il momento non possiamo parlare. Però noi intendiamo dire che queste società sono democratiche, ma chissà cosa vogliamo dire con questa parola. Diciamo che queste società si caratterizzano per avere sistemi politici democratici, costituzioni repubblicane, democratiche o quello che sia, e vogliamo dire che queste società hanno un forte imprinting democratico, perché la democrazia ha segnato la loro storia, la loro evoluzione, eccetera. Ma vogliamo dire con questo che queste società, tutte le società occidentali, sono democratiche nel senso che la democrazia è il tutto? No, la democrazia è una parte importantissima, naturalmente, come negarlo? E non è un caso che per la democrazia in queste società si è dovuto lottare così tanto, però resta una parte, perché intanto per incominciare il processo sociale, cioè il popolo in senso sociologico, non coincide col popolo previsto dalla Costituzione come il soggetto della sovranità, e su questo già abbiamo sentito qualcosa. E poi lo stesso regime democratico, rispetto alle società in cui è insediato, possiamo dire, o da cui è stato anche prodotto, possiamo anche dire, è una parte, perché tanto per incominciare la democrazia convive col sistema economico capitalistico, che con la democrazia direttamente non ha niente a che vedere. Però vale forse un teorema di questo genere, molto discutibile, me ne rendo conto. Nell'esperienza storica sappiamo che la democrazia c'è, funziona, sia pure malamente, se c'è il capitalismo. Il capitalismo non ha invece così tanto bisogno della democrazia, c'è una simmetria in questa relazione. Naturalmente tutto questo andrebbe visto sul piano storico più in dettaglio, ma questo ci dice perlomeno il fatto che quando parliamo di società democratiche, noi parliamo di società che hanno un regime politico democratico, però hanno anche un sistema economico capitalistico che ha una sua dinamica che non corrisponde a quella della democrazia, questo è poco ma sicuro, e che poi ci sono parecchi altri aspetti, variabili, componenti della società che non necessariamente rispondono alla razionalità democratica. Quindi la democrazia anche nelle democrazie più mature, più estese, pensiamo all'Inghilterra, la matrice, la madre di tutte le democrazie possibili e immaginabili, non è il tutto, diciamo. Forse questo ci aiuta a spiegare perché la politica democratica poi, nel suo sforzo di rappresentarsi come tutto, in modo esauriente, in realtà poi finisca per fallire, non ce la fa, e in questa sua aporia si insedia la sua ombra, che ha naturalmente una fenomenologia molto variabile anche storicamente, ma soprattutto che prende direzioni molto diverse. E se vogliamo dire, quindi per ricondurre all'osso la questione, c'è la politica democratica che cerca di essere, per così dire, cerca di fornire il governo democratico della società, sapendo che però la materia sociale ed economica che deve governare non risponde a logiche coerenti con quelle del sistema democratico, comunque ci sono delle varianti, diciamo, in questo, genera una sua ombra, e questa ombra, questa politica genera una sua antipolitica. Antipolitica qui non vuol dire, come dire, qualcosa che non è democratico, almeno a questo livello a cui siamo dell'analisi non potremmo affermarlo con certezza, però qualcosa che si contrappone, che crea una tensione, che si urta, che confligge con le forme istituite della politica democratica. Da qui tutta quella fenomenologia che già Maria Lucia Salvati vi ha rappresentato in qualche modo. Diciamo che, schematizzando al massimo, noi potremmo dire che l'antipolitica prende due binari tipici: o da un lato si propone come una specie di coscienza critica, ma dirlo così è molto blando naturalmente, della politica democratica istituita, quindi essenzialmente delle forme di democrazia rappresentativa e quindi delle mediazioni di partito o cose del genere, di tutto ciò che è legato comunque al momento elettorale, parlamentare, rappresentativo in senso lato, e queste forme, diciamo, di urto e di sollecitazione però anche del regime democratico sono svariatissime, e non tutte hanno questa intenzionalità, anzi questa è un'intenzionalità che gli attribuiamo noi ex post, in un certo senso sono microconflitti. Un caso prototipico potrebbe essere le sindromi cosiddette NIMBY, cioè gruppi locali di popolazione che si oppongono a qualche decisione pubblica di cui devono portare i costi e dicono: no, qui non la vogliamo questa cosa, no? All'inizio di democratico in questa, diciamo, posizione non c'è nulla, perché magari la decisione di fare quella cosa che gli dà fastidio è stata presa democraticamente, quindi attraverso i meccanismi della democrazia rappresentativa, quindi attraverso la legge tutto sommato poi alla fine, no? O comunque attraverso una policy di qualunque genere, no? Però muovendosi, attivandosi, creando la retorica e il discorso della comunicazione pubblica che è necessario per attivare un qualunque tipo di conflitto, si produce antipolitica, però democratica in questo caso, cioè che è utile che ci sia in democrazia. La democrazia sarebbe morta senza questa sua componente umbratile, diciamo così, che naturalmente è una forma che dà enormemente fastidio alla politica istituita, perché quando la politica istituita rappresentava in Parlamento l'opposizione, rappresentava anche questo pezzo d'ombra. Quando l'opposizione non c'è più, l'ombra non è più rappresentata, allora l'ombra si autorappresenta. Naturalmente autorappresentandosi, se vogliamo dire, adopererà linguaggi, retoriche, riferimenti, il linguaggio dei diritti qui è estremamente importante naturalmente, attivando anche forme di legame sociale diverse da quelle che sono previste dalla democrazia rappresentativa, e quindi aliene, diciamo così, come se si potesse dire così, non soltanto al palazzo del potere o a metafore di questo genere, ma in generale al processo politico istituito, che ha le sue regole, le sue culture, le sue prassi, le sue cattive abitudini prevalentemente nelle democrazie più sbrindellate come la nostra, no? Quindi cosa succede? Succede che queste componenti diventano un pezzo molto importante, e naturalmente hanno dei loro cicli, hanno delle loro fenologie. In passato ci si riferiva di più forse per esempio al ruolo dei movimenti collettivi, pensando a questa cosa. Oggi, come sappiamo, la fenologia è molto cambiata, ma su questo qui adesso non mi soffermo. Sappiamo soltanto, possiamo accettare il giudizio di, per esempio, di Rosalba Lovis, che è stato citato qui, che effettivamente è difficile immaginare un funzionamento diciamo così, equilibrato, non saprei come dire, autoconsapevole di un regime democratico contemporaneo che non sappia fare i conti, venire ai termini, o in qualche modo valorizzare questa componente che pure nella sua essenza è sostanzialmente antipolitica. Però la cosa, diciamo, questo è preoccupante per chi fa politica di professione, ma per il normale cittadino è una buona notizia sapere, come mostrava prima Mariuccio Salvati, che c'è una grande ricchezza, diciamo, nella società civile di queste forme di attivismi che poi producono, naturalmente possono produrre anche i loro mostri, perché la razionalità sociale è molto complessa, però nel loro insieme si può dire sono una forte risorsa a carattere democratico. L'altra componente dell'ombra è naturalmente quella che fa più problema, quella che convenzionalmente chiamiamo populismo. Qui ci sarebbe però da ricordare almeno questo, perché nella letteratura a volte ho notato su questo punto ci sono un po' degli abusi semantici. Diciamo, la parola populismo ci viene dall'Ottocento, mettiamo, no? Beh, tutto quello che sappiamo del populismo ottocentesco non c'è niente a che vedere con ciò che oggi chiamiamo, estremizzo un attimo il giudizio, no? Il populismo di oggi è un'altra cosa, è il populismo di società industriali avanzate, ipermature, di democrazie di lunga lena consolidate, eccetera, eccetera, di società di massa piuttosto benestanti che malestanti, delle società occidentali più avanzate. Cioè il vero problema, cioè il vero populismo che fa problema non è il populismo del Venezuela, voglio dire, no? O del Brasile, o di quello che volete voi, ma è il populismo delle democrazie più avanzate occidentali. È qui il punto decisivo, evidentemente. Cioè l'interrogazione diventa: ma in questa ombra che accompagna la democrazia, che ha sempre turbato un po' il processo politico democratico con varie tentazioni e pericoli anche avventuristici, pensiamo al boulangisme in Francia alla fine dell'Ottocento, eccetera, a noi oggi che cosa realmente preoccupa? Prima di tutto dobbiamo capire quali sono le condizioni che rendono possibile oggi in questo tipo di società una rinascita di forme populistiche che sembravano, proprio anche perché in qualche modo ci ricordano il popolo, no? Già la parola è stravagante, direi, no? Il popolo, diciamo, le masse, così, oppure siamo abituati a parlare di pubblico, per esempio, no? Siamo a parlare, cioè il popolo sì, appare nella Costituzione, così, ma insomma non è una parola poi in fondo che politicamente circoli molto, se non molto retoricamente, no? Il populismo ci ricorda con violenza invece che c'è il popolo, naturalmente, o meglio ci ricorda, come sottolinea Rosa Valò, che c'è una permanente dicotomia tra il popolo in senso sociologico e il popolo in senso costituzionale, che il popolo non è quel popolo là, che è titolare della sovranità. È un'altra cosa, un altro soggetto, una bestia un po' informe, difficile ovviamente da trattare. Ma quali sono allora le condizioni che nelle nostre società così avanzate, così ricche, così scolarizzate, così acculturate, rendono possibile questo fenomeno che comunque lo si voglia prendere, ha comunque effettivamente una componente regressiva. In questo senso, è regressiva nel senso che è una, non so come dire, è un fenomeno che propone la drastica semplificazione del reale, regressiva in questo senso tecnico del termine, voglio dire che siano regressivi i singoli individui o membri di un movimento populista. Insieme la retorica populista è regressiva in quanto riduce a, diciamo dire, ad elementi molto elementari una cosa che invece è molto complessa. Cioè, di fronte alla complessità offre l'elementare, il semplice, l'univoco, l'unidimensionale, eccetera, eccetera. E questo lo vediamo benissimo già nel linguaggio che i populisti oggi adoperano. Quali sono queste condizioni? Dicevo, qui è più difficile l'analisi. E un po', diciamo, qui gli studi di lunga durata di tipo storico possono ingannare, perché sembra quasi che il populismo si ripresenta continuamente e ha una specie di sua tradizione interna, no? A me sembra che invece la peculiarità oggi sia che ci sono condizioni specifiche, particolari, che forse danno anche al populismo una formattazione un po' diversa da quella storicamente conosciuta. E cioè, qualche ipotesi soltanto si può fare su questo, naturalmente, perché l'analisi qui, devo dire, tutto sommato è abbastanza carente, tra l'altro perché per lo più le analisi del populismo vengono derivate direttamente da malfunzionamenti del sistema politico rappresentativo, il che certamente è una variabile cruciale, ma poi restano molto fuori le componenti sociali, culturali, vengono accennate ma raramente vengono effettivamente esplicitate. Che cosa abbiamo in mano in buona sostanza? Che il popolo di cui stiamo parlando, intanto come cominciare, è un popolo di ceti medi. Quando pensiamo al popolo pensavamo vaste masse popolari, un po' proletarie se possibile, anche dal punto di vista dell'immagine, insomma, no? Un po' il popolo del quadro di Pellizza da Volpedo, insomma, quello è il popolo, no? No, quel popolo lì non c'è. Il populismo ha come attore le classi medie. Questa è una cosa che va un po' così. Non è lo studente russo populista che va al popolo, lui, classe media o anche aristocratico magari, che va dal contadino povero. No, qui sono i ceti medi che diventano i protagonisti di questa retorica politica, e quindi bisogna capire cosa succede nei ceti medi oggi in queste società per capire come mai lì si insedia il populismo. Allora, una possibile ipotesi, per dirla proprio in modo così molto drastico e semplificatorio, è questa: questi ceti medi, pensato soprattutto al caso italiano, che è abbastanza significativo e forse in parte diverso da quello degli altri paesi in Europa, ceti medi centrati sul lavoro autonomo, dove la famiglia è piccola impresa, che hanno raggiunto da poco un livello di benessere molto elevato secondo gli standard anche occidentali, che però sentono che questa cosa potrebbe sfuggirgli di mano, che è molto precaria. La vivono come precaria, anche se magari non è del tutto vero, no? Questo è un elemento cruciale nel meccanismo, senz'altro. Inoltre sentono che le variabili che possono incidere su questo loro acquisto, su questa loro acquisizione recente, anche generazionalmente molto recente, sono cose che sfuggono al loro controllo. Cosa sfugge al loro controllo? I processi di globalizzazione, senz'altro. Il fatto che anche l'economia più locale è immersa in flussi globali ingovernati, ingovernabili, incontrollabili. E che c'è anche qualcuno, qui poi scatta di nuovo il meccanismo naturalmente persecutorio e dietrologico, che ci inzuppa il pane in questa cosa, c'è qualcuno che se ne avvantaggia a loro costo naturalmente, e quindi diventerà subito un problema di trovare un capro espiatorio naturalmente, che poi sarà trovato o, secondo la logica di Laclau, nell'élite, che tradisce il popolo o contro cui il popolo comunque si ribella, questo popolo adesso stiamo parlando, oppure può essere trovato in avversari fittizi, in genere le componenti deboli della società, i marginali, gli immigrati o quello che capita sotto mano, perché è del tutto indifferente, il problema è che capiti qualcosa sotto mano, e questo capita sempre. Quindi c'è questo elemento, ceti medi arricchiti di recente e preoccupati, per esempio il tema dell'insicurezza urbana, che in gran parte è fittizio, lo sappiamo tutti, qui si crea veramente una costruzione immaginaria, no? Però sappiamo il rilievo che ha ottenuto nel senso comune. Altra cosa, occorre che questi ceti medi però, oltre ad essere esposti a questo tipo di rischi psicoeconomici, diciamo così, con un rischio anche un po' di perdita dello status sociale recentemente acquisito, sono esposti ad un altro processo che è ancora più rilevante, che forse è la condizione determinante perché possano invocare il populismo come soluzione dei loro problemi, cioè in paradosso. Parlavamo del popolo come fosse plebe proletario, parliamo adesso di ceti medi, ma questi ceti medi quando diventano populisti o si orientano al populismo diventano plebe, si riplebeizzano, cioè questo è il problema, che il ceto medio ridiventa la plebe contemporanea. Come? Questa è una cosa stupefacente in un certo senso, ma lo sappiamo dalla comunicazione, diciamo, mass mediatica in particolare, che viene trasmesso essenzialmente la legittimazione di tutto ciò che è volgare, di tutto ciò che è trash, di tutto ciò che è sbrindellato, di tutto ciò che è sregolato, diciamo, questo ha lasciato certamente nella città italiana, semi analfabeta e mediatizzata all'eccesso, un segno particolare su questi ceti medi che, notate bene, sono pochissimo scolarizzati in senso comparativo a quelli di altri paesi europei. Circa la metà della popolazione attiva italiana non va oltre la scuola media inferiore. Quindi va tenuto presente questo, di che cosa stiamo parlando, eh? Esposti peraltro ad un'accumulazione mediatica potentissima per un'intera generazione. Quindi loro ridiventano plebe, non che diventano poveri come plebei, loro mantengono lo stile di vita materiale dei ceti medi, ma nella loro mentalità entrano componenti che una volta chiamavamo plebei, compreso anche il senso dell'essere marginali, che è tutt'altro che vero, naturalmente, no? È il regno dell'autoillusione, dell'autoinganno, assolutamente, una cosa assolutamente impressionante. Diciamo, uno che un po' ha cercato di penetrare in questi misteri sociologici potrebbe essere Bonomi. Lui ha scritto un libro sul rancore, no? Il rancore è, diciamo, la sociologia del risentimento, è chiaro che ha sempre a che fare col ceto medio, molto più che con il popolo nel senso di proletariato. E il ceto medio perché? Perché soffre perché soffre di deprivazione relativa, sempre fa confronti, paragoni, non ce n'è mai abbastanza, no? E quindi, e poi naturalmente ha dei cicli, esposto a dei rischi, quindi ha delle paure particolari perché ha comunque qualcosa in mano che potrebbe perdere. Allora, la sostanza è che, diciamo, effettivamente il rancore è un meccanismo psicologico che in qualche modo effettivamente si insedia in questi gruppi sociali, ma che è possibile spiegare soltanto con un enorme componente di autoillusione e di autoinganno, no? Perché, diciamo, loro se la prendono con qualcuno che non è la causa dei loro eventuali mali in generale, no? Ma soprattutto ce l'hanno con chi? Con quelli che stanno peggio, non con quelli che stanno meglio, no? E quindi è una cosa che ha veramente, qua veramente la psicologia di massa, forse del fascismo dovremmo ripescare effettivamente, non tanto quella dell'Ottocento, dovrebbe innovare qualcosa, perché noi questi meccanismi in fondo, ve li dico così in modo confuso perché non li capiamo fino a fondo, sappiamo che però si sono insediati in vaste componenti della nostra società, e quindi da questo sistema di insicurezze, di paure, di risentimenti e però di perdita di standard e di cultura delle regole, che questa è la cosa decisiva, evidentemente si attiva un possibile riferimento a qual è la soluzione più facile per i miei problemi, e quindi qua si aprono tutte le vie, che adesso è inutile percorrere in dettaglio, che vanno o dalla ricerca di radici di un'identità localizzata, diciamo così, poi localistica di fatto, no? Che ovviamente questa non è nemmeno immaginaria, è proprio finta, fittizia, inesistente, però creduta come tale, quindi l'elemento di alienazione è paradossalmente, esponenzialmente crescente da questo punto di vista. E nello stesso tempo, naturalmente, l'organizzarsi in una forma antipolitica in una fase iniziale, che però poi, come da molti osservatori avevano notato, stranamente si trasforma, perché all'inizio sembrava questo tipo di movimenti, cosa può fare? È una specie di modo d'essere di un certo gruppo sociale che si contrappone al sistema politico, ai partiti, ce l'ha con i sindacati, ce l'ha con con gli immigrati, ce l'ha con qualcosa, no? Ma poi di fatto paradossalmente si struttura in forma di partito. Cioè, anche in Francia, cioè la cosa strana è che diventano strutture stabili. A questo punto, naturalmente, le strutture stabili, cioè l'elemento organizzativo, che comporta anche naturalmente lo sviluppo di un ceto politico di professionisti del populismo, evidentemente, a questo punto l'organizzazione riproduce quei meccanismi anche se non ci fossero più le condizioni sociali esterne, perché ormai il patatrac è fatto, la materia è stata prodotta e si tratta di alimentarla. E infatti questo potrebbe spiegare l'oltranzismo delle parole che vengono utilizzate nella retorica populista, perché serve ad attivare continuamente il fuoco che tenderebbe a spegnersi anche nella banale routine della vita di sezione locale, diciamo così, che diventerebbe un po' quella che era la vecchia vita della sezione di partito. E quindi qual è l'elemento rancoroso, aggressivo che fa la differenza? E quindi non verrebbero più soddisfatte quelle profonde emozioni che invece il populismo effettivamente tenta di soddisfare. Quindi qui, per dare semplicemente qualche segnale del fatto che c'è qualcosa di nuovo nel populismo, ma allora cosa c'è di vecchio nella democrazia? Cioè, cos'è che nella democrazia invece non riesce a reggere questo tipo di cose? Diciamo, in senso lato, la democrazia senza antipolitica non può vivere. Quindi state a capire soltanto se la democrazia che ci fa con questa antipolitica? Naturalmente abbiamo varie risposte. Rosan Vallon, che tutto sommato, malgrado le sue analisi molto dettagliate e anche un po' qui e là, che incide su cose molto gravi, non dico che è ottimista, ma diciamo propone che una fuoriuscita possibile, cioè, se vogliamo, un rilancio della politica. Se il politico fosse capace di rilanciarsi, potrebbe recuperare queste energie che purtroppo oggi prendono queste canalizzazioni, diciamo così, patologiche, proprio per il fatto che non hanno un modo di esprimersi in modo più, diciamo così, razionale. Non so se questo è realmente possibile nelle condizioni date, caro, ci vuole un'interrogazione più radicale sulla capacità della democrazia di diventare, diciamo così, un regime che è così complesso come è diventata complessa la società. Diciamo che il regime politico democratico è molto elementare rispetto a questa complessità. Sì, c'è la democrazia politica, c'è la democrazia degli interessi, c'è il neocooperativismo, c'è il ruolo dei sindacati, c'è il lobbismo, ci sono infiniti modi in cui pezzi di società trovano rappresentanza o comunque soddisfazione dei loro interessi. Ma diciamo, come dice Rosan Vallon, non c'è la polis, non c'è niente che tiene in comune queste cose, sono tutti frammenti, tutti pezzi. Avrebbe ragione di nuovo anche Turenne a dire che in questo senso specifico la società non si autorappresenta più in forme politiche. Allora, la domanda è, naturalmente non lo so, se è possibile immaginare una cultura democratica, istituzioni democratiche, processi democratici tali che siano in grado di apprendere dalla antipolitica che essi necessariamente nelle loro forme attuali contribuiscono a generare. E quindi è inutile prendersela col populismo da questo punto di vista, me la prendo con la democrazia, che non è cresciuta abbastanza, diciamo, da reggere un confronto di questo tipo. Naturalmente poi la democrazia ha i suoi alibi, tanto guarda, Stato nazionale, perché parliamo di democrazia a livello di Stato-Nazione, conta poco, quindi poi molte decisioni sono prese altrove. Diciamo, quello che manca, sempre esagerando un pochino, ma non troppo, è questa considerazione. La democrazia non è il tutto, ma è una parte. Essa convive con poteri altri, che noi chiamiamo abitualmente, disciplinarmente, poteri di fatto, perché non li sappiamo come chiamare, sono i poteri dell'economia e degli interessi organizzati, eccetera, eccetera, che hanno una loro parvenza di legittimazione democratica, ma non si sa come, perché a Bruxelles è la città delle lobby, e le decisioni che prende la Commissione Europea sono prese sotto la pressione di interessi di parte, e non sappiamo se il risultato finale di questa cosa, non dico che sia democratico, anche semplicemente razionale, se uno pensa alla politica agricola comunitaria, la politica della pesca comunitaria e quant'altro ce ne sono. Quindi abbiamo a che fare con tecnocrazie con le quali la democrazia deve convivere e delle quali però non c'è traccia nelle nostre costituzioni. Sembra che siano delle cose così che non si sa, che per caso sono successe, purtroppo, ahimè. Però ragioniamo all'incontrario. Siamo, volenti o nolenti, in una società della conoscenza in cui scienze e tecniche sono al centro di tutto. Quindi i poteri tecnici, che sono poi corpi sociali ben organizzati e potenti, sono al centro di tutto. Comunque la vecchia divisione dei poteri non regge più, perché c'è una divisione tecnica del lavoro politico istituzionale, e allora le agenzie, l'antitrust e tutti quelli che sono, a chi rispondono tutte queste cose qua? Istituiti per legge, democraticamente, ma non operanti con criteri democratici, perché rispondono a criteri tecnici, giustamente. L'antitrust che non potrebbe prendere le sue decisioni a maggioranza come fa il Parlamento, lo prende in base ad analisi tecnico-scientifiche, diciamo, almeno in via di principio. Tutta questa materia, così come la componente propriamente antipolitica, diciamo movimentista, diciamo la vitalità della società civile nella misura in cui c'è, non appare, cioè è permessa, è lecita, ma non ha uno statuto riconoscibile. Da qui anche il fatto che se un potere è forte si afferma comunque come i poteri tecnocratici, centrali nucleari in Italia, ma c'è stata una discussione pubblica su questo da nessuna parte, nessuno ne sa nulla. Cosa succederà? Sindrome NIMBY quando mi vuoi mettere la centrale a casa mia? Questo, e quindi ecco, questo è il processo. Bisogna ripensare lo statuto soprattutto di tutte le varie forme di potere contro potere, di divisioni dei poteri che ci sono. In una società poi della conoscenza in cui gran parte di questi poteri sono legati alla dimensione cognitiva, che si decide in base a quello che si sa. E quindi se il potere democratico si è talmente, noi parliamo di crisi dei partiti perché siamo abituati a dire così, ma è una crisi di ignoranza in sostanza. Cioè il potere, la politica non conosce la società, non conosce e non vuole sapere nulla di ciò che i saperi dicono sulla società, salvo una disciplina che è riuscita a entrare a vedere spiegate, l'economia, perché naturalmente l'economicismo era molto adatto, diciamo così, alle culture politiche che si erano anche storicamente affermate. Ma se prescindiamo da questo, la maggior parte delle politiche pubbliche sono prese in una beata condizione di ignoranza del problema che deve essere trattato. Esagero un pochino, ma non tanto, parlo per cognizione di causa. Quindi se la democrazia vuole riprendere il suo giusto e legittimo ruolo, come noi speriamo, deve fare i conti con questi poteri nuovi che stanno emergendo nella nostra società e deve probabilmente attrezzarsi in modo anche istituito abbastanza diverso da quello che abbiamo ricevuto dal passato. Non so se il passato ci aiuta molto, qua effettivamente siamo troppo, la democrazia è vittima della propria dipendenza dal sentiero. Il bivio a cui siamo arrivati è veramente colossale, lo sappiamo, globalizzazione, scienza e tecnica e tutto, la complessità crescente comunque di tutto, anche degli individui, per non parlare dei gruppi sociali. Quindi il compito della democrazia, se vuole rimanere una forma legittima di governo, è di rifare i conti con tutta questa cosa. È un'opera molto lunga. Il populismo ci segnala che c'è un problema, forse addirittura un problemino, potremmo dire, poi alla fine quando ci saremo scordati il ciclo passa, poi si ricompone, eccetera eccetera. Il populismo poi non riesce a essere maggioritario, è sempre minoritario in queste società, di conseguenza diventa un partito minore che può vincere qualcosa se si allea con qualcosa, di qualcosa di più forte, come nel caso italiano. Anche altrove, per esempio in Germania, queste componenti restano al margine del sistema, danno fastidio, sono pericolose, ma raramente possono diventare il centro di qualcosa a loro volta, no? Quindi c'è ancora lo spazio per agire se si è consapevoli della natura del problema che si deve affrontare. Grazie.